E torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento con Cosenza, con un compagno del comitato Prendo Casa. Pronto? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Ci vuoi raccontare cosa sta succedendo? Pronto? Pronto, ci senti? Sì. Niente, ti chiedevo di raccontarci che sta succedendo. Nel salotto buono della città, nel Corso Mazzini, il 28 marzo è stato occupato uno stabile della chiesa, precisamente delle suore del Verbo Incarnato, è stato occupato da italiani, migranti, singoli e famiglie, diversi bambini e donne incinta. Il 28 marzo è quest'oggi alle 7:10, dopo un lungo girovagare per la città perché non si sapeva quale palazzo volevano sgomberare, poi alla fine hanno puntato sul palazzo del salotto della città perché avevamo usato un po' troppo. Da tenere presente che questo palazzo, in effetti sono tre palazzi uniti, era un ex studentato, c'è una banca che oggi, come un po' tutto il corso, oggi tutto quanto, essendo blindato, è tutto quanto chiuso. Al momento stanno una decina di persone sul tetto, sui cornicioni, ci sono anche le forze dell'ordine sul tetto, però non intervengono in quanto appunto le persone sono sui cornicioni. Niente, dispiegamento completamente esagerato e sempre fuori le righe da parte dei soliti noti dirigenti della Digos di Cosenza. Per intenderci, il dottor Cantafora, conosciuto negli anni per essere il maggiore, il principale accusatore dei famosi, ai noi, no global, quindi con il processo che ne è derivato, e quindi niente, alla testa il dottor Cantafora con un centinaio tra poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa, quattro mezzi dei vigili del fuoco, vigili urbani mai visti così tanti, che bloccano, praticamente paralizzano il centro della città. E quindi alle 7:10 si è proceduto, dopo 5 minuti di sfondamento dei portoni, a entrare all'interno dello stabile, e pian pianino poi si è arrivati fino al tetto. Le forze sono come dire, completamente fuori da, cioè sproporzionate, ecco, in questo senso. Comunque niente, il palazzo ancora gli striscioni appesi, le persone stanno, appunto, gli occupanti stanno, alcuni degli occupanti stanno sul tetto. La proposta, diciamo, del comune è il solito alberghetto, che dopo alcune verifiche si è tirato indietro perché il comune non riesce a pagare, non ha pagato negli anni e ancora una volta non riesce a pagare, quindi anche questi. Stanno provando a vedere altri alberghi della città, ma credo che sia la medesima risposta. Quindi per il momento le persone che sono uscite stanno aspettando di sapere dove poter andare? Una cosa simpatica è che, come un po' al solito, non sanno mai che pesci prendere, non avevano conteggiato i singoli, avevano conteggiato soltanto le famiglie, quindi però molti singoli, soprattutto migranti, sono qua. Ovviamente gli è stato notificato in un primo momento a sei attivisti, tra cui anche me. Il sottoscritto è stato notificato una denuncia per occupazione in associazione, e niente, quindi anche ai capi famiglia hanno notificato la denuncia, ecco. Niente, quindi siamo in questo momento in attesa, ci sono un po' tra medici e quant'altro, giornalisti, curiosi, gente, insomma. molta, un dispiegamento comunque davvero esagerato, neanche nelle operazioni antimafia ci sono questi schieramenti così esagerati. Senti, avete già in cantiere insomma una risposta per questo pomeriggio, per domani, o ancora non avete avuto il tempo insomma? Andare a dormire, quindi certo. La giornata è lunga, ancora ci sono i nostri compagni sul tetto, quindi attendiamo un po' questa fine mezzogiornata, poi ci determineremo di conseguenza, perché non sanno proprio davvero che pesci prendere. Senti, ti ringraziamo e ti chiediamo di tenerci informati se ci sono sviluppi. Assolutamente. Grazie. Ciao. Ciao.